Italia in controluce. Sono le 13.35 minuti, è arrivato il momento di Italia in controluce, l'approfondimento del GR di Radio 24 dedicato alla cronaca italiana. Si va verso le regionali di marzo, i candidati, gli schieramenti, le alleanze rendono meno visibili però i problemi reali, le questioni aperte nelle varie regioni. Così Italia in controluce ha iniziato un viaggio nelle regioni alla prova elettorale amministrativa. In Piemonte avevamo scelto il punto di vista dello sconto sulla TAV e sulle grandi opere, in Lombardia avevamo privilegiato il confronto, sconto sulle integrazioni e sulle immigrazioni. Oggi Paolo Piacenza ci racconta il Veneto, quello del miracolo economico, ma oggi è ancora il cuore del modello nord-est. Da una ventina d'anni il Veneto è il cuore del modello nord-est. Dietro la facciata dei capannoni, delle villette, dei centri commerciali c'è un mondo complesso e ricco che non si esaurisce nelle felici pennellate di chi lo ha raccontato. Da Massimo Carlotto a Gianfranco Bettin, da Carlo Mazzacurati a Marco Paolini. Come la chiameresti? Quella grande città che sta tra la galassia pedemontana e la laguna mondo, con tanti nomi, tante facce, tanti sindaci, niente centro, niente periferia. Ogni tanto oltre il bordo della strada due campi spelacchiati di gran turco di soia ti illudono di essere in campagna, fuori porta, no! C'è una linea di villette e capannoni che ti corre parallela alla strada e ti trovi più o meno invischiato nella stessa area industriale, artigianale, centro direzionale che avevi appena mollato. Ma dove siamo qua? Oggi i segni di disagio non mancano. Il comune di Padova ha promesso, a fianco di strumenti di sostegno economico, di aprire uno sportello di ascolto antidepressione per chi resta senza lavoro. Lungo le strade trafficate si vedono capannoni lasciati a metà, cantieri fermi. Tante imprese artigiane hanno chiuso, marchi simbolo del Made in Nord-Est come Dainese e AGV hanno delocalizzato. Poi c'è il caso Glaxo. La multinazionale del farmaco ha deciso di spostare il suo centro ricerche da Verona alla Cina, lasciando a casa 550 ricercatori. Le istituzioni, dal Ministero alla Regione, tuttavia, hanno reagito subito. Il caso Glaxo, dice il direttore della Fondazione Nord-Est, Daniele Marini, è cruciale, ma la sua importanza va ben oltre i confini del Veneto. La vicenda Glaxo in realtà non è un problema esclusivo del Nord-Est, ma è un problema del sistema paese. A Nord-Est, spiega Daniele Marini, la crisi ha accelerato l'evoluzione di un modello economico emerso negli anni 90, ma costruito nelle sue premesse fin dagli anni 70. Di recente nel sistema delle imprese si è puntato su un innalzamento della qualità per produzioni e sistemi produttivi. Il vero problema è l'occupazione. Ma Marini osserva che in Veneto le forze sociali stanno reagendo insieme. C'è stata una effervescenza di iniziative positive al punto tale che il tasso di disoccupazione nel 2009 si è attestato al 4%. La trasformazione da queste parti va ben oltre il nodo della ripresa dalla crisi. Lo dice anche Mario Carraro, presidente di un gruppo multinazionale leader mondiale nei sistemi di trasmissione meccanica. Questa crisi coincide con un passaggio generazionale e generalizzato, se si vuole, perché tutta la prima parte della nostra vita industriale sta un po' terminando e sta passando il testimone, e passa il testimone a un altro tipo di famiglia, un altro tipo di cultura. Ecco, pertanto una crisi mondiale coincide con un'epoca di cambiamento anche nel Veneto, su cui bisogna fare molta attenzione. La partita delle regionali si gioca dunque in un momento cruciale. Trasformazione e rilancio sono un nodo impossibile da eludere, anche se il confronto sembra concentrarsi sui futuri assetti di potere in una successione a galan che sembra già scritta. Il ministro delle politiche agricole, Luca Zaia, trevigiano, candidato del centrodestra, punta in modo più o meno scoperto a guidare il sorpasso della sua Lega Nord sull'alleato PDL. La titanica impresa di contendergli la vittoria vede impegnati Antonio De Poli per l'UDC e il leader della CGA di Mestre, Giuseppe Bortolussi, per il PD. Il rischio, spiega la segretaria generale della CISL Veneto, Franca Porto, è che nella campagna elettorale manchi una vera competizione. Purtroppo una campagna elettorale che si gioca molto sulla quasi certezza del risultato e quindi i temi veri sembra che non ci sia neanche bisogno di affrontarli, di discuterli. I temi comuni, trasversali, riconosciuti da tutti in fondo non mancano. Quello chiave per capire la trasformazione in corso è il sogno olimpico. La candidatura bipartisan ai giochi del 2020 promossa dal sindaco di Venezia Cacciari e dal presidente della regione Galan è, a detta di molti, una fondamentale opportunità opportunità per fare sistema in una macro regione priva di un vero centro. Per Mario Carraro, le Olimpiadi possono essere a Nord-Est la sfida della maturità. Potrebbe rappresentare quello che Barcellona ha rappresentato per la Spagna, insomma il punto di centro anche all'esterno di quanto si può fare di innovazione all'interno del paese. Insomma, secondo me è molto importante la trasversalità e l'elemento positivo che deve caratterizzare questo passaggio. L'altro grande tema in chiave elettorale sono le risorse per le infrastrutture, dalla nuova Romea all'alta velocità ferroviaria fino alla banda larga. Perché in una regione che venera la propria identità, sogna l'autonomia e continua ad avere, nonostante tre ministri veneti, un rapporto difficile con il potere romano, la vera necessità è quella di non chiudersi all'esterno, di restare connessa. La partita delle regionali si gioca anche su questo difficile crinale: difendere territorio e identità, ma anche rilanciare la proiezione internazionale e l'integrazione degli stranieri. In fondo è nella provincia di Treviso, nella terra del prosindaco Gentilini e del ministro leghista Zaia, che esiste, secondo la Caritas, uno dei modelli di integrazione più efficaci d'Italia. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. Italia in controluce. 13:41 minuti e 6 secondi. Che cosa è accaduto dal 26 settembre 2:33 della notte del 1997, cioè da quel giorno in cui l'Umbria venne colpita da uno dei più violenti terremoti avvenuti in Italia. 12 anni dopo, la ricostruzione si è completata oppure restano aperti i problemi mai risolti da governi di vari colori? Beatrice Vergari. La cosa più grave è che nessuno ha potuto riavere ancora la propria casa. Io sto su una casetta di legno con 4 persone. Abbiamo fatto un lavoro eccezionale, riprendendo tutti i progetti che erano fermi, bloccati. Ancora luci e ombre dopo quasi 13 anni da quel terremoto che in piena notte seminò paura e distruzione tra Umbria e Marche. In Umbria gli sfollati furono più di 22.000, oltre 9.000 famiglie fuori da casa, dopo due violente scosse di terremoto che fecero contare 6 morti e un centinaio di feriti, lasciando alla storia di fine millennio le immagini sconvolgenti del crollo degli affreschi di Giotto dalle volte della Basilica Superiore di Assisi, il primo terremoto di grande impatto televisivo, seguito da decine di truppe di tutto il mondo. Polvere e macerie, anziani abitanti dei paesini di montagna dell'Appennino Umbro-Marchigiano in strada, in pigiama e ciabatte, strappati alla normalità della gente semplice, alle porte dell'inverno del 1997. Una ferita profonda inferta al patrimonio umano e culturale di una delle regioni più piccole e ricche di storia d'Italia. Vincenzo Riommi, assessore alla ricostruzione della regione Umbria. Fu un momento oggettivamente di cesura e poi di svolta rispetto al futuro della realtà di quella regione, di quella parte della regione. Quindi un evento importante da cui è rinata una parte significativa dell'Umbria su basi nuove e comunque non indifferenti. La macchina della ricostruzione ha richiesto quasi 5 miliardi di euro per realizzare 18.000 interventi, finanziati al dicembre 2009 in 24 centri abitati. Dopo 13 anni, circa 1.400 persone non sono ancora rientrate nelle proprie abitazioni, stando ai dati forniti dall'Osservatorio alla ricostruzione. L'assessore regionale Vincenzo Riommi. Il 93% sono coloro che sono rientrati già nella loro casa. E questo è un grande risultato, perché questa è la prima ricostruzione dopo un evento sismico rilevantissimo. L'altro 7% abita in altre case. Eppure, nonostante il 93% degli sfollati sia tornato a casa, restano ancora molte zone buie, contenziosi con le imprese edili e ricostruzioni rinviate. Nocera Umbra, cittadina di 6.000 abitanti nella provincia di Perugia, fu devastata dal sisma. Si è dovuto aspettare circa 10 anni prima che i lavori di ricostruzione partissero. Donatello Tinti, sindaco di Nocera Umbra. Per un problema di ordine politico e tecnico non riuscivano all'interno degli uffici e con i privati cittadini e soprattutto con i loro tecnici a predisporre i progetti essenziali per essere approvati e finanziati. E poi Giove, piccola frazione di 85 abitanti nel comune di Valtopina. 9 famiglie, soprattutto anziani, attendono invano da 13 inverni di riavere la propria casa. Valentina Armillei. 4 famiglie si trovano nelle case popolari dello IERP e tutti gli altri aspettano ancora nel container. I container a Giove sono moduli di latta da 6 metri che sono soffocanti d'estate e gelidi d'inverno. Daniele Biacchessi vi ha raccontato la cronaca italiana nella seconda edizione di Italia in Controluce, l'approfondimento di Radio 24, quello che racconta in due edizioni le piccole e grandi storie della cronaca italiana, i temi forti, i problemi da risolvere, le eccellenze che ancora fortunatamente rappresentano il fiore all'occhiello del nostro paese. Le puntate le potete riascoltare su www.radio24.it oppure in podcast, c'è il gruppo di Facebook, lo sapete, oltre 1000 persone sono iscritte, Radio 24 Italia in Controluce, oppure potete inviare via mail le vostre domande a controluce@radio24.it. A risentirci domani alle 6:30.